L'ammaestratore di Istanbul è un fumetto scritto e disegnato da Gianluca Costantini e Elettra Stambulis e siamo qui per parlarne proprio con uno dei due autori e do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Gianluca Costantini. Ciao Gianluca. Salve a tutti, buongiorno. Questo è uno dei primi libri, forse proprio il primo in assoluto, che racconta la storia di un importante intellettuale pittore turco che sarebbe Osman Hamdi Bey, spero di averlo nominato bene. E intanto ti chiedo chi è quest'uomo, questa figura particolare. Sì, intanto il libro, la prima edizione fu di Comma 22, ma la nuova edizione è di Mesogea, che è una nuova casa editrice siciliana. È un libro quindi nato molti anni fa, nel 2006, tra il 2006 e il 2007 l'abbiamo realizzato. Dopo alcuni viaggi che abbiamo fatto a Istanbul in quegli anni, incominciamo a vedere dei quadri, delle immagini di questo pittore che si chiamava Osman Hamdi. È un artista, è archeologo, fondatore di musei e di tantissime altre cose, che ha vissuto tra il 1840 e il 1910, ancora nell'impero ottomano, quindi, che cadde poi nel 1922. Quindi è un personaggio molto particolare per quegli anni, molto innovatore, che faceva molte cose ed è diventato un po' alla volta uno dei personaggi più importanti di quegli anni della cultura turca, perché oltre ad essere un pittore che rese moderna la pittura turca, cambiando completamente il modo di rappresentare la vita, le persone, le donne nei quadri, poi incominciò anche a essere un archeologo dopo una sua permanenza nella città di Baghdad. Quindi, insomma, da dove nasce l'ispirazione e la voglia di raccontare questa storia che forse non viene trattata di solito? No, è un personaggio conosciuto in Europa, di cui però in questi ultimi anni, dopo l'uscita di questo libro, abbiamo visto anche comparire dei suoi quadri in molti musei importanti in Europa, come Parigi o anche a Berlino, e oltretutto è incominciato a essere usato come proprio l'artista che rappresenta quella parte del mondo, non solo quella turca, ma anche l'arte del Medio Oriente o l'arte persiana, perché era l'unico pittore che venne notato, diciamo, da noi occidentali. Quindi noi lo abbiamo scoperto per caso nei nostri viaggi, ma anche nella stessa Turchia non era particolarmente messo in vista, nel senso non se ne parlava proprio volentieri, nonostante in tutti i musei di pittura di Istanbul compaiono dei suoi quadri, come sia anche il fondatore del museo archeologico, che è uno dei musei archeologici più visitati del mondo. Bello, quindi è una bellissima storia che parte, hai detto, da alcuni viaggi, ma sono viaggi fatti proprio per lo studio di questo fantastico pittore, questo personaggio, o andando lì avete trovato l'ispirazione per raccontare questa storia? Andando lì abbiamo trovato l'ispirazione, poi a un certo punto abbiamo fatto un viaggio di circa un mese e siamo stati a Istanbul per fare proprio delle ricerche e scoprire di più su questo personaggio di cui trovavamo poche informazioni. Quindi abbiamo potuto consultare delle biblioteche, siamo potuti andare nei musei e scoprire di più di questo personaggio che ci affascinava sempre di più mentre lo conoscevamo. Quindi abbiamo visitato, per esempio, esiste ancora la sua casa estiva dove dipingeva, quindi siamo stati in quel luogo, abbiamo trovato dei libri nei mercatini dell'antiquariato, e ho conosciuto alcune persone che ci hanno dato delle informazioni in più anche nell'Accademia di Belle Arti di Istanbul, per esempio. Torniamo a parlare del libro L'ammaestratore di Istanbul e questa volta lo facciamo con la penna di questo fumetto, e quindi do il benvenuto a Elettra Stambulis. Ciao Elettra. Ciao, ciao Martina. Nel libro la biografia di Osman incrocia le strade di un paese e in particolare di una città che è quella di Istanbul. Ti chiedo come si intrecciano le due narrazioni. Istanbul è la città. Per i greci Istanbul viene chiamata proprio i poli, la città, e quindi ha una sua identità che oltrepassa quella della Turchia, ma questo anche per i turchi è così, ci sono vari proverbi turchi che dicono non c'è niente di bello quanto Istanbul, quindi lei è una grande protagonista ed è una protagonista che cambia molto. E visto che il libro è stato scritto e disegnato tra il 2006 e il 2007, in qualche modo questa narrazione grafica e narrativa testimonia una città che non c'è più, perché è una città in profonda mutazione che sta subendo in modo molto forte sia il gioco della dittatura di Erdogan che il gioco dell'altrettanto forte dittatura della speculazione edilizia. Quindi queste due cose messe insieme l'hanno trasformata in modo forse irreversibile da un certo punto di vista. Ti chiedo allora qualcosa della tua esperienza personale, del viaggio che hai fatto con Gianluca, per sapere un po' come hai vissuto l'esperienza. Questo lo racconto nel libro, quindi non voglio svelarlo da un certo punto di vista. Ok, perfetto. Perché prima di tutto questo libro è un racconto di viaggio, quindi quello che io scrivo lì ha la forma, anche se vuoi, un po' del diario, no, personale, anche se poi intercetta questioni che vanno ben oltre l'aspetto personale. Però sì, devo dire che per me Istanbul, la Turchia, sono state una seconda casa per diversi anni. Non ci torno dal 2015, che è l'anno in cui poi in realtà è uscito un mio libro tradotto in turco, Piccola Gerusalemme, che è edito anche quello da Mesogea in Italia. E da allora non ci torno più, perché dopo il fallito colpo di Stato la situazione è fortemente degenerata, e per cui non è un paese in cui una certa visione può sentirsi sicura, e mi manca tantissimo, devo dire. Una domanda sul titolo: L'ammaestratore di Istanbul riprende un quadro di Osman, è vero? Sì, L'ammaestratore di tartarughe è il quadro più famoso, più iconico di Osman Hamdi, ed è il quadro che viene anche riprodotto sulle magliette, un po' un simbolo, diciamo, di una certa fine dell'impero ottomano, una visione avanzata che appare nell'impero ottomano in piena decadenza. Il quadro è interessante anche per raccontare la sua vita, perché come in diversi quadri lui si rappresenta, è vestito da suonatore di flauto sufi, e si racconta, insomma, nella tradizione si pensava che i sufi con il loro flauto potessero ammaestrare appunto le tartarughe. In realtà queste tartarughe non sembrano molto ammaestrate, perché stanno lì, si mangiano delle cose per terra e non danno nessun tipo di sguardo e di segnale, no, di reazione a questo sufi Osman Hamdi, che rimane con le mani conserte e voltato di spalle verso il pubblico. Questo quadro, oltre ad essere molto, molto bello, il fatto che simbolicamente riprende tantissimi elementi della tradizione, simboleggia un passaggio della vita di Osman, ovvero la fondazione dell'Accademia di Belle Arti Mimar Sinan, che insieme a tantissime altre cose Osman ha fondato durante la sua vita. E di tutte le cose che ha fatto, cioè il museo archeologico, la legge per la difesa del patrimonio, il suo lavoro d'artista, di governatore, eccetera, lui dice è stata la cosa più difficile, perché questi artisti non ti ascoltano, neanche il flauto, insomma, dei sufi sembra poterli in qualche modo redimere. E quindi questo quadro l'abbiamo preso come spunto per il titolo, in quanto comunque lui in qualche modo è l'ammaestratore di Istanbul, nel senso che anche se nella sua percezione forse non tutto gli è venuto esattamente come avrebbe voluto, tuttavia ha lasciato un legato, un'eredità pazzesca alla città. Bene, Elettra, ti ringrazio moltissimo per averci raccontato qualcosa di più del tuo fumetto per la nuova edizione di Mesogea, che è uscita proprio pochissimi giorni fa, e ti ringrazio e a presto. Grazie a voi, grazie Martina.